Grazie. Grazie, buonasera. Sì, appunto è stato introdotto quello che è il tema, l'oggetto di questo breve ciclo, il remake, ovvero il rifacimento cinematografico. Tra l'altro mi sembra che sia un tema che è stato scelto anche con una certa attenzione all'attualità. Sapete bene come negli ultimi tempi siano usciti dei film, soprattutto americani, che sono rifacimenti di altri film. Ecco, per esempio, un titolo, non so quanti di voi l'abbiano visto, un titolo per tutti, Quel treno per Yuma, questo film con Russell Crowe e Christian Bale, che è il rifacimento di un film americano del 57 di Elmer Davis con Van Heflin e Glenn Ford. In realtà spesso i film si rifanno. Vedete, qualche tempo fa mi è successa una cosa abbastanza curiosa. Sono andato a vedere un film, voi conoscete l'attore dedito alle arti marziali Jean-Claude Van Damme, non so quanti di voi lo conoscono, è un attore belga, che ha fatto questi film dove non è tanto importante, come dire, il dialogo, il contenuto del film stesso, quanto l'acrobazia che di volta in volta, nelle singole sequenze, Van Damme mette in atto. Ho visto questo film che si intitola Hard Target, senza tregua. E effettivamente questo titolo rende anche l'idea di quello che è il film. Film appunto adrenalinico, diremmo. Vedendo questo film, ho pensato che forse era il rifacimento di un film italiano, ma non osavo arrivare a tanto, perché quando poi vi dirò di quale film era rifacimento questa pellicola con Van Damme, veramente strabuzzerete gli occhi o sarete quantomeno sorpresi, come lo fui io all'epoca. E poi effettivamente verificai la bontà anche di questa mia idea che mi frullava in mente. Bene, vedendo questo film ho subito pensato ad un film addirittura con Mino Reitano. Il film si chiama Una vita lunga un giorno, un film di Ferdinando Baldi del 1973, in cui Mino Reitano interpreta lo stesso personaggio che a distanza di quasi 30 anni Jean-Claude Van Damme interpreta nel film Hard Target, senza tregua. Naturalmente non volevo credere ai miei occhi, insomma, pensavo di avere un qualche attacco così di arterosclerosi precoce. Forse ce l'ho, però devo dire che poi ho avuto anche la prova di quanto andavo pensando, perché poi ho scoperto, intervistando il regista di questo film con Mino Reitano del 1973, che gli sceneggiatori del film avevano effettivamente venduto la storia agli americani. E naturalmente il film hollywoodiano prodotto con Jean-Claude Van Damme, nello stesso tempo, acquistando i diritti, aveva anche avuto la possibilità di non dichiarare nei titoli di testa del film tratto da un film con Mino Reitano. E ci credo, anche perché poi, insomma, effettivamente in Italia quanta importanza avrebbero dato ad un film di arti marziali ispirato ad un film con Mino Reitano? Molto poca. Dico questo effettivamente perché oggi si parlerà, in modo particolare, di un film che è famosissimo, tutti lo conoscete, Per un pugno di dollari di Sergio Leone, che è un film del 1964. Quello che è meno noto è che questo film è in realtà il rifacimento di un film giapponese che si chiama La sfida dei samurai o Yojimbo, La guardia del corpo, questo è il titolo italiano di questo film di Kurosawa del 1961. In realtà quando uscì Per un pugno di dollari questa cosa non si sapeva. E in realtà non la sapevano fino in fondo neppure i produttori, tanto che si dimenticarono di pagare i diritti per il rifacimento del film. Infatti, se voi vedete i titoli di testa di Per un pugno di dollari, in nessun cartello è riportata la dicitura tratto o da un soggetto di Akira Kurosawa, tratto dal film di Akira Kurosawa, Yojimbo, La guardia del corpo o La sfida dei samurai, se preferite. In realtà cos'era successo? Bisogna anche pensare al contesto in cui venne realizzato il film di Sergio Leone. Era il 1964 e in Italia venivano realizzati dei western, ma erano produzioni un po' di serie B, se non di serie Z. Erano film molto spesso girati grazie a delle coproduzioni con la Spagna e la Germania. Generalmente la Germania metteva gli attori in modo da coprire poi la distribuzione del film sul mercato teutonico, e la Spagna metteva gli ambienti, perché sapete che in Spagna c'è una regione che si chiama Almeria, che presenta delle caratteristiche, una facies ambientale simile a quella di quella parte di Stati Uniti tra l'Arizona, lo Utah e il Texas, al confine magari col New Mexico, in cui venivano ambientati i western americani, no? Sapete per esempio che Ombre Rosse, La Sfida Infernale, per citare due dei più famosi western mai prodotti di John Ford, entrambi erano girati in questa famosa Monument Valley, no? In questa zona desertica con queste montagne, che poi è una caratteristica dell'ambiente del western americano. E qui in Spagna si trovavano delle condizioni ambientali analoghe, ecco perché questi film italiani venivano girati in comproduzione con la Spagna e con la Germania, grazie ad alcuni attori che venivano portati ad impolpare i cast italiani. Quindi nel 1964, quando Sergio Leone mette mano per un pugno di dollari, i produttori, che sono Papi e Colombo, pensano che per un pugno di dollari sia l'ennesimo western all'italiana di basso cabotaggio, di basso profilo, realizzato con un budget risicato, ovvero con pochi mezzi, con poche risorse, che deve semplicemente raschiare un po' il fondo del barile degli incassi sul mercato nazionale. Naturalmente ad una condizione, ovvero di presentare quel film come se fosse un film americano. L'idea era quella un po' di gabbare lo spettatore italiano, che doveva pensare di vedere un film americano. Ecco perché, e forse lo sapete, Sergio Leone firmò questo film con uno pseudonimo, Bob Robertson, semplicemente perché Bob Robertson vuole dire sostanzialmente, in un italiano, in un inglese un po' maccheronico, figlio di Roberto Roberti, e il padre, che si chiamava Vincenzo Leone, con lo pseudonimo Roberto Roberti, era stato uno dei registi italiani più importanti dell'epoca del muto, aveva diretto per esempio anche dei film con Francesca Bertini. Ecco che quindi, dovendo scegliere uno pseudonimo, Sergio Leone si ricorda del padre e si firma Bob Robertson. Ma anche gli altri attori del film utilizzano degli pseudonimi, tant'è che i recensori dell'epoca, quando capirono, ci misero un po', ma quando capirono che effettivamente il film non era americano ma era italiano, si meravigliarono soprattutto di un nome, dissero: d'accordo la fantasia, ma come si fa a inventare un nome come Clint Eastwood? Perché effettivamente Clint Eastwood sembra un nome inventato. In realtà era l'unico americano, come noto, del cast del film di Sergio Leone, tanto che l'antagonista Ramon Rocco, che è interpretato da Gianmaria Volonté, divenne John Wells, anche lì sempre un po' con un inglese maccheronico, perché Will Volontà, Will Wells, ecco, no? Poi si ricorda anche di Orson Welles, allora ecco che arriva John Wells. Poi tra gli altri attori naturalmente ci sono Bruno Carotenuto, per esempio, che era il figlio di un grande caratterista dell'epoca, diventa Carol Brown, Bruno Carotenuto, insomma, no? Ed è giusto. E così tutti gli altri. Per esempio c'è anche quell'attore che interpreta molto spesso il suocero o il padre di Carlo Verdone nei suoi film, no? Ricordate quell'attore che interpreta il padre di Carlo Verdone in uno degli episodi di Un Sacco Bello, no? Quello che dice a un certo punto: io sono comunista così, noi alza il pugno chiuso. Bene, quell'attore Mario Brega compare anche nel film per un pugno di dollari, ed avendo lui una passione per una determinata marca di sigarette diventa Richard Stuyvesant, quindi Mario Brega, Richard Stuyvesant. Poi c'è un altro attore che si chiama Benito Stefanelli, che del film è anche maestro d'armi, che anche lui cerca uno pseudonimo. Io ho avuto modo di intervistarlo e gli chiesi: ma come mai ti sei chiamato Benny Reeves? Lui, perché era stato la controfigura di Steve Reeves, che era un attore praticamente dell'epoca dei film mitologici, aveva in particolare interpretato film come Le fatiche di Ercole e Ercole e la regina di Lide. Ecco che quindi questo film italiano si presenta come un film a tutti gli effetti americano, perché tutti hanno utilizzato uno pseudonimo, e non solo gli attori, per esempio anche lo stesso produttore esecutivo, che si chiama Checco Palaggi, diventa Frank Palas, oppure Roberto Quintini, il montatore, Bob Quintol, e via dicendo, si può andare avanti all'infinito. In nessun cartello, però, dicevamo, dei titoli di testa, né tantomeno nei manifesti del film, viene riportata questa dicitura: tratto da un film di Akira Kurosawa. Il film, che nasce come una pellicola di scarso e modesto profilo, invece ottiene un successo davvero clamoroso. Alcuni di voi forse si ricordano quando scoppiò questo film e nell'arco di un anno e mezzo arrivò ad incassare oltre 3 miliardi sul solo territorio nazionale. Naturalmente incasso dell'epoca, quindi un incasso oggi naturalmente non più raggiungibile da nessun film italiano. Fu veramente un successo clamoroso. E il film venne visto anche dagli emissari della Toho. La Toho è questa casa di produzione giapponese che aveva prodotto il film di Kurosawa di qui sopra, La sfida dei samurai. Lo stesso Akira Kurosawa arriva a conoscenza, giunge a conoscenza del fatto che c'è un film che ricorda molto il suo e decide di andarla a vedere. Dopo averlo visto, scrive una lettera a Sergio Leone in cui dice: il suo è un ottimo film, è un grande film, purtroppo è il mio film, cioè lei mi ha copiato. Leone sul momento, naturalmente, come dire, non sta più nella pelle, perché un grande maestro del cinema internazionale come Akira Kurosawa apprezza il suo film, ha detto che il suo è un grande film, infatti va in giro per tutta Roma con questa lettera in cui appunto Kurosawa dice che lui ha plagiato il suo film. Ecco allora che poi si va in causa, e durante questa causa, tra l'altro, un aiuto regista di Sergio Leone, che si chiama Tonino Valeri, che poi in seguito ha realizzato diversi film, ha diretto diversi film, tra cui uno, forse il più importante, con Harry Fonda e Terence Hill, si chiama Il mio nome nessuno. Beh, Tonino Valeri, che all'epoca è un giovane aiuto regista, decide di trovare un grimaldello per poter scardinare l'accusa di plagio. E dice: ma in realtà non è vero che Sergio Leone ha copiato il film di Kurosawa, entrambi hanno copiato Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni. A quel punto effettivamente questo giudizio si incarta, anche quelli della Toho capiscono che se vogliono avere i soldi subito è necessario, come dire, cambiare strategia. Allora si trova sostanzialmente un accordo, e pensate che per ricompensare Akira Kurosawa e la sua casa di produzione del torto subito, i produttori del film di Sergio Leone, Papi e Colombo, della Jolly Film, sono costretti a riconoscere a Kurosawa una percentuale sull'incasso mondiale del film, che equivaleva al 15%. Inoltre viene riconosciuto alla casa di produzione del film di Kurosawa il diritto di sfruttare a piacimento il film sul mercato asiatico, quindi in Giappone, in Cina, a Taiwan, eccetera. A tal punto che qualche anno dopo Sergio Leone poté dichiarare: Akira Kurosawa ha guadagnato più soldi con Per un pugno di dollari che con tutti i film che ha fatto nella sua carriera. Questo alla fine era il risultato. La cosa però interessante è che non era la prima volta nel 1964 che un western era il rifacimento di un film giapponese. Era già successo qualche anno prima con il film, lo conoscete tutti, I Magnifici Sette. Era il 1960 e I Magnifici Sette è il rifacimento speculare di un film di Akira Kurosawa del 1954, che è I Sette Samurai. La differenza è che nei titoli di testa, uno dei primi cartelli dei titoli di testa del film americano diretto da John Starch, riporta proprio la dicitura basato sul film di Akira Kurosawa, i diritti in quel caso erano stati pagati. Naturalmente in entrambi i casi, ovvero sia nel caso del rifacimento di Sergio Leone e di Per un pugno di dollari rispetto alla sfida dei samurai, che nel caso dei Magnifici Sette rispetto ai Sette Samurai, si tratta naturalmente di rifacimenti che non sono film perfettamente uguali, perché intanto la storia, che nei film di Kurosawa si ambienta in Giappone, viene trasferita negli Stati Uniti, viene trasferita nel West, e si passa anche a epoche storiche diverse. E questo già mi sembra un primo punto interessante, perché in realtà i film di Kurosawa, che sono film di samurai, sono effettivamente un po' il corrispettivo del western americano, ovvero si ambientano in un periodo storico in cui emerge la figura del samurai, ovvero emerge la figura di questo guerriero più o meno solitario che è dedito ad una causa e che è animato da orgoglio. e molto spesso combatte riconoscendo un maestro, ed è quello che per esempio succede nel film I Sette Samurai, dove uno dei protagonisti all'inizio del film, Kanbei, in qualche modo si pone come maestro per gli altri samurai che lo seguono, ovvero ecco il vincolo solidaristico che lega i samurai al loro capo, al loro maestro. Questo naturalmente cambia completamente nel western americano, dove la motivazione che spinge il pistolero non è di carattere così idealistico. Molto spesso il pistolero nel cinema western americano ambisce sì magari a sposare la bella del villaggio e magari a mettere la testa a posto e diventare sceriffo, però nello stesso tempo è sostanzialmente un individualista. Ecco, questo aspetto dell'individualismo è completamente diverso invece e sconosciuto al cinema di Akira Kurosawa. Ora però vorrei, anche perché magari con le immagini, con le scene sotto gli occhi ci possiamo anche spiegare meglio, vorrei farvi vedere come si passa dal film di Kurosawa, La sfida dei samurai, al film di Sergio Leone Per un pugno di dollari, cioè ovvero dimostrarvi come effettivamente Per un pugno di dollari, al di là delle dichiarazioni dell'epoca, fosse effettivamente la copia, il rifacimento del film di Kurosawa, naturalmente con delle differenze che andremo poi ad indagare dopo aver visto questa prima clip e dopo aver analizzato questa prima comparazione. E questa appunto è La sfida dei samurai, in cui c'è questo samurai che è interpretato da Toshiro Mifune, che arriva in un paese, in un villaggio che è tiranneggiato da due fabbricanti, due maggiorenti del paese, uno è un fabbricante di seta, l'altro un fabbricante di sake. A loro volta questi due fabbricanti hanno alle loro dipendenze, hanno assoldato una manovalanza, due gruppi che si fronteggiano, e in qualche modo il personaggio di Mifune, il samurai, Sanjuro, trae vantaggio da questa situazione, una situazione appunto che gli permette poi di maturare un guadagno nel corso del film. E qui siamo proprio all'inizio, quando il samurai deve dimostrare ai due contendenti la propria forza e in qualche modo offrirsi e riuscire appunto ad avere poi il guadagno maggiore, più significativo. Ma allora vediamo come la stessa scena, trattandosi appunto nel caso di Per un pugno di dollari di rifacimento letterale, vediamo come la stessa scena è stata invece realizzata da Sergio Leone, in cui appunto abbiamo Clint Eastwood nel ruolo dello straniero, Joe viene chiamata ad un certo punto del film, che arriva nel paesino di San Miguel e si trova in mezzo a due fuochi. Ci sono due famiglie, Hiroko e Baxter, che si fronteggiano, e lui decide, come il samurai del film di Akira Kurosawa, di mettersi in vendita al miglior offerente. Anche lui, come nel film di Kurosawa, il samurai Toshiro Mifune, deve dimostrare la propria forza, e lo fa in questa scena, il corrispettivo di quella che abbiamo appena visto di Kurosawa. Non avevo detto appunto di come Marguerite Dawson venisse chiamato da Kubrick per il film 2001 Odissea nello spazio, e lui appunto rifiutò, perché poi mi disse: ma sai, io nel tempo che avrei lavorato per il film di Kubrick avrei fatto 10-20 film di quelli che faccio io, così un po', no, con 4 lire. Ho detto: ma senti, ma dico, ma tu perché, come li facevi questi film? Ecco, per esempio la scenografia del film Il pianeta degli uomini spenti, oppure i dafanoidi vengono da Marte, eccetera. E lui mi disse, tra l'altro, dove il protagonista era Frank Nero, che sarebbe Franco Nero, che all'epoca era, e Jen Haight, Lisa Gastori. Beh, praticamente gli chiesi: ma come facevi a creare queste scenografie? Lui mi disse: ecco, guarda, arrivava praticamente un macchinista, sistemava un po' di stagnola, 4 luci, e poi arrivava da Margheriti e gli diceva questa frase: dottò, er cosmo è pronto. Cioè praticamente con un po' di stagnola e 4 lumini era fatto il cosmo di Margheriti, che però poi aveva effettivamente una certa influenza addirittura su Kubrick. Adesso vediamo la sequenza anche di Per un pugno di dollari e vedrete appunto le differenze che prima notavamo. Avete visto che appunto qui c'è un'assenza assoluta, no, di queste inquadrature, di questi dettagli, di questi primissimi piani, che invece vedremo abbondano nel film di Sergio Leone, proprio in questo tentativo di rendere quanto più astorico il contesto. Vedremo anche naturalmente il ruolo che ha la musica di Ennio Morricone, una musica anch'essa di sintesi, no? Perché c'è lo scacciapensieri, c'è il marranzano, ci sono degli strumenti musicali che non fanno parte naturalmente della tradizione della musica western classica di Hollywood. E vediamo allora in Per un pugno di dollari come la scena del film di Kurosawa venga tradotta in chiave western da Sergio Leone. La storia è la medesima, cambia proprio il modo di inquadrare la storia. Quanto in quello di Leone è simile anche l'apparizione, no, del protagonista nel momento del duello finale, no? Come se venisse un fantasma, cioè viene appunto a seguito di un'esplosione, un fumo ne avvolge la figura, appunto come a dire che è qualcosa che ormai ha quasi caratteri, no, soprannaturali. Avete visto effettivamente anche come è diverso il modo proprio di inquadrare di Leone rispetto a Kurosawa, no? Se Kurosawa privilegia questi campi e controcampi in cui c'è una parte Mifune, il samurai, e dall'altra tutti gli avversari, qui invece c'è proprio un dettaglio che va a scoprire tutti i singoli giocatori della contesa finale. E c'è anche quello che vi avevo detto: alla fine Clint Eastwood, lo straniero senza nome, vince perché è effettivamente il personaggio che nel corso del film è evoluto, è cambiato. L'altro, Ramon, interpretato da Volonté, è rimasto come era all'inizio, ancora crede che sempre l'uomo con il fucile uccide quello con la pistola. Tra l'altro c'è un'altra cosa da dire, insomma non si può fare a meno di apprezzare, per esempio, quando si rivedono questi film, il lavoro dei doppiatori, no? Perché poi abbiamo detto Enrico Maria Salerno doppia Clint Eastwood, il doppiatore di Gian Maria Volonté è Nando Gazzolo, noto anche come voce dell'Amaretto di Saronno, forse ricordate anche quello, e poi c'è Luigi Pavese che doppia Silvanito, quell'attore spagnolo José Pepe Calvo, che è appunto l'oste della situazione. Naturalmente questo film, Per un pugno di dollari, va anche contestualizzato nell'epoca e nel genere western. E immaginate quanta impressione abbia dovuto fare questo film sulla platea internazionale, perché i western, prima di Per un pugno di dollari, erano film completamente diversi, questo è noto. Anche perché negli Stati Uniti, puritani, moralisti, eccetera, vigeva all'epoca ancora da oltre 30 anni il cosiddetto codice ACE di autocensura. Cioè, non so se avete mai, o se avete presente, l'avete visti sicuramente, i film americani degli anni 30, 40, 50 fino alla metà degli anni 60. Quando vediamo un duello in un film western, raramente vediamo il momento in cui viene esploso il colpo, il momento in cui l'avversario cade a terra. Raramente vediamo i due contendenti nella stessa inquadratura, perché semplicemente non si potevano far vedere, cioè questo era oggetto di censura. Come addirittura Alfred Hitchcock nel film Psycho incorse negli strali del cosiddetto codice ACE, perché fece vedere una scena che è posta all'inizio del film, in cui un uomo sta in piedi accanto a un letto dove è seduta una donna in reggiseno. Ecco, solo questo poteva lasciare intendere chissà quale scenario. Mentre passava tranquillamente, questo è curioso, che dormissero nello stesso letto Stanley Olio e Gianni Pinotto, per esempio, che erano comunque uomini. Però questo nel codice ACE passava. Ma allora, nel 64, invece, far vedere la violenza in un film western era effettivamente una cosa abbastanza sconvolgente. Tra l'altro, sempre pensando al supposto cinismo, no, di questo personaggio, si è sempre detto, no, qual è la motivazione di Clint Eastwood in Per un pugno di dollari? Appunto è la cupidigia, no, è l'avidità, è il danaro, eccetera. Però poi è vero, qui non lo facciamo vedere, insomma, anche perché prenderebbe troppo tempo, ma sapete bene che poi c'è una sorta di sottotrama in questo film in cui Clint Eastwood aiuta, no, una famigliola di messicani, no, a porsi in salvo. È un po' quello che succede anche nel film di Kurosawa, dove Toshiro Mifune aiuta anche egli, cioè come a dire, no? Insomma, in fin dei conti il protagonista è di animo buono, insomma, no? Non agisce solo per un pugno di dollari, ma lo fa anche perché ha dei valori, ha un'etica. Ecco un'altra cosa che per esempio mette in relazione i due protagonisti. Da questo film, da Per un pugno di dollari, nacque poi tutta la stagione del western all'italiana, no? Voi sapete che in Italia sono stati prodotti in circa 15 anni 600 western, no? Insomma, di tutti i tipi, dai nomi più diversi, insomma, sapete, per esempio c'è un film italo-spagnolo che non è granché come film, però secondo me c'ha un bel titolo: La mia colt ti cerca, quattro ceri ti attendono. Non è male. Oppure un altro si chiama Campa Carogna, la taglia cresce. C'è Sartana, vendi la pistola, comprati la bara. Ma insomma, poi veramente sono tantissimi, perché poi naturalmente accanto a quelli seri vennero fatte anche le parodie, no? Per esempio Franco e Ciccio fecero Il bello, il brutto e il cretino per un pugno nell'occhio, e Ciccio perdona, io no. Poi dopo, vabbè, il solo Ciccio farà anche l'esorciccio, poi in chiave horror qualche tempo dopo. E anche lì effettivamente i registi italiani si sbizzarrirono, perché è sempre questa la capacità artigianale del cinema italiano. Mi ricordo di un regista che qualche tempo fa intervistai, che si chiama Massimo Pupillo, che fece come Max Hunter, nome pseudonimo, il film Billy il taciturno, che era un film proprio poverissimo, con un attore talmente alto che si chiama George Eastman, che non c'entrava neppure nell'inquadratura. Infatti poi dopo un po' non lavorò più perché era troppo alto, quindi non riuscivano a fare l'inquadratura, alto più di 2 metri. Ex giocatore di basket. Beh, quel film Billy il taciturno è uno dei più poveri, però rende un po' l'idea di come venivano fatti i western all'italiana all'epoca. Perché io infatti vedevo questo film, queste scene, e dico: ma sa, Pupillo, ma dove ha girato? No, certo, non l'America, no? Non la Monument Valley, ma almeno la Spagna, no? L'Almeria dei film western di Sergio Leone. Lui mi disse: no, assolutamente. Semplicemente era andato sulla spiaggia di Ostia, aveva preso secchiello e paletta e aveva creato praticamente due canyon con una gola in mezzo. Poi era andato ad acquistare dei soldatini alla standa, aveva praticamente fatto questo agguato degli indiani alle giubbe rosse, alzando un po' di polverone. Certo, non sarà un capolavoro, però l'effetto ci stava tutto. Per dire come effettivamente nei western all'italiana si andasse un po' al risparmio. Uno stuntman, uno che lavorava come cascatore in uno di questi film, mi disse che con un regista addirittura ebbe a discutere, perché siccome mancavano le comparse, lui e altri quattro, nella prima scena facevano i cowboy in un'inquadratura. Nella seconda scena facevano dei soldati dell'esercito, e poi alla fine detto: adesso concludiamo, andate su quella montagna, giravano credo in Calabria, andate su quella montagna e fate anche i messicani che scendono. A quel punto sembra che l'abbiano letteralmente aggredito. Perché un altro regista, invece, nella prima epoca del western all'italiana, tale Sergio Bergonzelli, fece un film che si chiama Jimmy il primo, e volle avere un protagonista americano, Cameron Mitchell, che era stato un attore abbastanza conosciuto negli Stati Uniti. Questo attore arrivò in Italia. Quando incontrò Bergonzelli durante le prove del costume nei teatri di posa, andò poi nel villaggio Western vicino a Roma dove si giravano questi film, dopo qualche giorno capì che non avrebbe visto un dollaro, e quindi prese e se ne andò. Il buon Bergonzelli mi raccontò che non si perse d'animo, tenne quello che poteva tenere, anche i primi piani fatti nei camerini, prese una controfigura e montò il film. Infatti, se uno vede il film, il protagonista è quello, ma molto spesso si vede di spalle, perché naturalmente aveva dovuto anche in questo caso fare di necessità virtù. Insomma, poi si potrebbe andare avanti effettivamente all'infinito. Come si potrebbe parlare appunto anche di quali sono le analogie tra i sette samurai e i Magnifici Sette. Ma non lo potremmo fare, almeno questa sera, perché per un inconveniente tecnico, purtroppo, no, in realtà c'erano dei VHS che difficilmente si riesce a collegare, però lì era interessante. Qui, vabbè, abbiamo i Magnifici Sette di Sturgis, che è appunto il rifacimento dei sette samurai di Kurosawa. Qui devo dire che il confronto è anche più interessante, perché dimostra come poi il cinema hollywoodiano in buona sostanza è un cinema di confezione, ma che tende un po' a svilire il riferimento di Kurosawa. Il film di Kurosawa ha una sequenza finale, quella in cui i sette samurai devono difendere questo villaggio di contadini dall'arrivo dei predoni, che è una sequenza straordinaria, che ha un impatto visivo un po' riconducibile al Nevsky di Eisenstein, ha una grandissima ricchezza figurativa, ha un respiro epico che mi sembra che il film di Sturgess non riesca a ricostruire nei Magnifici Sette. Però è anche interessante notare come i Magnifici Sette però può essere considerato una sorta di anello di congiunzione tra il Giappone, tra Kurosawa, il western americano e il western italiano di Sergio Leone, perché poi nei Magnifici Sette ci sono diversi attori che poi Sergio Leone riutilizza, a partire da James Coburn, che è uno dei Magnifici Sette che Sergio Leone avrebbe voluto già quale protagonista di Per un pugno di dollari al posto di Clint Eastwood, perché quando Leone sceglie Clint Eastwood lo sceglie perché non ha i soldi per pagare James Coburn. James Coburn costa $25,000, Clint Eastwood ne costa 15,000, ecco perché sceglie Clint Eastwood. E nei Magnifici Sette un altro dei sette è Charles Bronson, che poi sarà Armonica in C'era una volta il West. E lo stesso capo dei banditi, il messicano cattivo, quello che interpreta Calvera, è Eli Wallach, che poi sarà Tuco nel Buono, il Brutto e il Cattivo. Quindi vedete come effettivamente i Magnifici Sette è una sorta di anello di congiunzione, anche perché in qualche modo può essere considerato l'ultimo grande western americano di quell'epoca, perché quando Leone gira Per un pugno di dollari, ormai il cinema western americano è un genere molto televisivo, arriva anche in Italia, ma è un genere un po' di serie B, di serie C. I grandi divi non fanno più i western. Infatti nel 1962 John Ford poté fare un film che si chiama L'uomo che uccise Liberty Valance, non so quanti di voi l'hanno visto, in cui i due protagonisti, il politico, interpretato da James Stewart, il senatore, no? L'America legalitaria, quella che si sostituisce al vecchio West, si prende il merito di un assassino, appunto l'assassino di Liberty Valance, di questo fuorilegge che è Lee Marvin nel film, merito che invece andrebbe a Tom Doniphone, interpretato da John Wayne, che è il vecchio West. Quindi già L'uomo che uccise Liberty Valance nel 1962 metteva proprio una pietra tombale sul cinema western, ovvero ormai non è più l'America dei pistoleri, ma è l'America dei politici, l'America che si avvia verso un percorso di legalità, non è più il Far West, questo nel 62. Ecco che allora, come dire, i contenuti che avevano caratterizzato il western vengono un po' meno nel momento in cui il pistolero non ha più diritto di cittadinanza. A questo punto io sono andato avanti un'oretta e un quarto, mi fermerei per non tediarvi oltre, e se avete domande naturalmente o curiosità io sono qui a disposizione. Grazie dell'attenzione. Non mi metterete sui ceci come nel secondo Tragico Fantozzi, però io l'esorciccio lo vedo volentieri, anche giocando una coscia lunga, quindi magari seduto, non sui ceci. Sì, no, assolutamente, devo dire che questo è un argomento che effettivamente si può affrontare. Ma guardi, c'è almeno un altro film, perché allora dicevamo in precedenza che il film di samurai, Jidai Jeko, è un genere abbastanza diffuso nel cinema giapponese, è un genere, come dire, a sé stante. Molto spesso, ed è una sorta di sottofilone, il samurai in questo genere di film ha una qualche mutilazione, ovvero non ha un braccio, e allora questo ci fa venire in mente per esempio il personaggio che Clint Eastwood interpreta in Per qualche dollaro in più, che è appunto il monco, oppure il pistolero, oppure lapsus freudiano, il samurai è cieco e non vedente. E infatti ci sono almeno due western all'italiana in cui il protagonista è un non vedente, è un pistolero che è diventato cieco per colpa dei suoi avversari e che però riesce alla fine ad avere la meglio sugli stessi. Questo avviene tanto nel film Minnesota Clay del 1964, sempre con quel Cameron Mitchell che dicevo prima, di Sergio Corbucci, e questo, diciamo, è un western della prima ora, cioè quei western che si producevano in Italia prima che Per un pugno di dollari in qualche modo cambiassi connotati al genere. E l'altro è un film molto curioso in cui addirittura il messicano antagonista del protagonista viene interpretato dal Beatles Ringo Starr, e il film si chiama Blind Man di Ferdinando Baldi. E le dico di più, siccome poi nel cinema italiano tutto si tiene, Ferdinando Baldi è il regista del film Correitano, che citavo prima, vede? Quindi alla fine tutto ritorna, insomma, tra migliaia di registi. Ed effettivamente queste figure, appunto, l'eroe cieco, è una figura del film di samurai. Ma non solo, pensate per